nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 13 gennaio, il sole in regione sorto alle 7.47, tramonterà alle 16.45, la luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Continua l'espansione del mercato ortofrutticolo di Udine, che incrementa le sue piattaforme, da un lato per rispondere alla domanda dei produttori locali, dall'altro per conquistare quelle dimensioni internazionali che la sua collocazione geografica gli potrebbe assicurare. Questo è il tema della nostra apertura, per passare poi al corsivo di Enos Costantini, che si interroga sulla vocazione del Friuli. Essere periferia di un capoluogo o una galassia di comunità vive e vitali? Le stringenti disposizioni che si devono osservare per sbarcare sul mercato tedesco sono al centro della rubrica delle normative, mentre per la storia dell'allevamento bovino in regione la puntata è dedicata ai difficili anni della Prima Guerra Mondiale, che segnarono un deciso rallentamento delle dinamiche intraprese a inizio Novecento. Nella rubrica dei giardini di scena la livrea invernale del parco di Villa Varda sulle rive dell'Ivenza a Brugnera, mentre per la storia della grappa gli anni presi in esame sono quelli del secondo dopoguerra. Mercato agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante, il proverbio agricolo friulano concludono la puntata. Novità in vista per il mercato ortofrutticolo di Udine. Ne parliamo con il vicepresidente di Udine Mercati, Giuseppe Pavan. Si sta lavorando affinché il mercato di Udine diventi un hub a livello non solo interregionale, ma addirittura internazionale per il mercato dell'ortofrutta. Da dove iniziamo? Iniziamo parlando del progetto che parte dalla regione con la passata amministrazione, ma subito sposato in pieno anche dall'assessorato alle attività produttive, dove si dà molta importanza a questo sviluppo di queste aree di servizio logistiche per fare questo tipo di lavoro, di sviluppare tutto quello che riguarda il servizio con meno costi, con più razionalità e quindi velocizzare tutto quello che è il commercio, non solo dei prodotti ortofrutticoli, ma anche degli altri prodotti che possono essere di materie prime, sempre dei prodotti freschi. Per quanto riguarda cosa si vede, come cambierà il quartiere ortofrutticolo udinese? Andremo a fare uno sviluppo in tre step iniziali di piattaforme attrezzate, refrigerate, che serviranno per stoccaggi e poi per mandare via tutte le merci ortofrutticole. Quindi aree nuove, superfici nuove, attrezzate in modo da avere più praticità e anche dare più servizio alle richieste, alle manifestazioni di interesse che abbiamo già da tempo. Qual è il ruolo, qual è il sostegno che questo mercato di oggi, anche quello del domani, può dare all'agricoltura nostrana, a chi produce ortofrutta in Friuli Venezia Giulia? Questa è una cosa fondamentale ed è una cosa che si parla da tanti anni con diverse passate amministrazioni regionali e non solo regionali, anche locali, per dare un impulso a quelli che sono magari gli articoli molto importanti che abbiamo in Friuli Venezia Giulia. Quindi li sappiamo, li conosciamo e queste aree, in primis, saranno anche disposte su un discorso di sfruttare già i marchi di produzione che abbiamo molto importanti in Friuli Venezia Giulia, dando spazio, magari fare un consorzio di produzione e qualificando questi prodotti. Il piccolo produttore locale trova spazio da voi? Deve trovare spazio. Io faccio sempre l'esempio, se mi permettete, del vicino Veneto, che con il consorzio Radicchio e Treviso hanno fatto espansione e siamo andati anche a verificare le cose, perché sono molto, diciamo, ospitali a far vedere il modello. È un modello da copiare, tra virgolette, perché è un modello che, partendo da piccole aziende, sono diventate delle strutture importanti, organizzate, uniformando il prodotto e portandolo in tutta Europa, ma portandolo anche negli Stati Uniti. Dal piccolo produttore allo scenario internazionale, lei in qualità di vicepresidente nazionale di Federagro Mercati sarà i prossimi giorni a Bruxelles a parlare di piattaforme. Cosa deve cambiare qua? Deve cambiare molto. Innanzitutto noi andremo in questa commissione a parlare del ruolo delle piattaforme agroalimentari in Italia. Noi già siamo in collegamento con tutta Europa. In Italia ci sono tantissime piattaforme, bisogna unificarle, bisogna tagliarne alcune, raggrupparle. Noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo Trieste, che già degli operatori di Trieste sono venuti a Udine, quindi non tagliando Trieste assolutamente, perché è una realtà importante anche lì, però cercare di raggruppare le piattaforme, ma soprattutto trovare un ruolo importante nella filiera ortofrutticola. I mercati, virgolette, volgarmente chiamati, come diceva lei prima, sono dei posti dove sono certificati assolutamente per tutte quelle caratteristiche che oggi ci impone la legge sul commercio, ma non solo, la legge di stoccaggio, di tracciabilità dei prodotti, etichettatura e quant'altro. Il Friuli deve ancora fare la scelta se essere periferia del suo capoluogo oppure una costellazione di comunità. È l'interrogativo che si pone Enos Costantini nel corsivo di oggi. I giornalisti ti fanno sempre domande. Uno mi ha chiesto dove va il Friuli. Ho risposto che il Friuli ha diverse piaghe e un grande male. L'indifferenza. L'indifferenza nei confronti del futuro. Il Friuli dovrà decidere se continuare sulla strada intrapresa, cioè essere alla periferia di una città che non c'è, oppure diventare una costellazione di comunità vive e vivaci. Può sposare in modo definitivo l'attuale modello agricolo e urbanistico di ispirazione americana, mediato da Lombardia e Veneto, perpetuando ancora per un po' un popolo di vecchi in villaggi silenti. Oppure può ridare vita alle nostre mille comunità, le vere cellule della nostra civiltà. Ecco il vero obiettivo politico. Due punti. Paesi e paesini non autarchici, ma il più possibile autonomi dal punto di vista alimentare ed energetico, culturalmente vivaci, dove l'agricoltura è collegata alla alimentazione, alla salute e alla cassa rurale, dove i galli non siano perseguitati, dove l'Ave Maria del mattino segna coi suoi rintocchi l'inizio di una giornata allietata dalla musica di bambini vocianti, di motocoltivatori scoppiettanti, di galline razzolanti e di fabbri che riparano attrezzi per il diserbo meccanico. Né utopia né tantomeno nostalgia. Si tratta di una scelta politica. Chi deve fare questa scelta? Non solo i politici. O soprattutto non i politici, troppo spesso eterodiretti e quindi partigiani di un modello alieno, ma l'intera classe dirigente regionale, coi rappresentanti di tutte le categorie produttive, dell'istruzione e dei servizi. La classe politica è quella che ci meritiamo, ma la classe dirigente è figlia della gente. Dovrà solo togliersi il paraocchi di categoria e ragionare sul vero bene comune. Salute oltre che sanità, qualità della vita, ambiente più che territorio, i social per comunicare con Vancouver e Pechino, ma la piazza, l'osteria, il sagrato sotto il tanto demonizzato campanile per comunicare coi vicini del borgo. La domanda che noi ora rivolgiamo al giornalista è la seguente. La nostra classe dirigente, figlia della gente, saprà fare una scelta politica? E soprattutto, abbiamo una classe dirigente? Questa domenica la rubrica delle normative è dedicata ad una legge tedesca. Con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, vediamo perché interessa anche i produttori del Friuli Venezia Giulia. A partire dal 1 gennaio in Germania è entrata in vigore la nuova legge sullo smaltimento dei rifiuti da imballaggio, che aggiorna e rende più stringenti le precedenti disposizioni sul recupero e riciclo degli imballaggi primari di tutte le merci, comprese quelle di importazione. E siccome tra i produttori agricoli, pensiamo per esempio alle nostre cantine, sono numerosissimi quelli che operano sul mercato tedesco, ecco che anche loro sono direttamente interessati. E cosa è cambiato con l'anno nuovo? Forse non tutti sanno che già dal 2009 chiunque spedisce merci in Germania deve obbligatoriamente convenzionarsi con una delle 9 piattaforme riconosciute dal governo tedesco per il recupero e il riciclo. La convenzione, che naturalmente ha un costo in relazione alla natura e al quantitativo di imballaggi introdotti nel mercato tedesco, dovrebbe garantire una corretta gestione del rifiuto. Con il 1° gennaio di quest'anno le imprese che operano sul mercato tedesco devono anche registrarsi in una sorta di albo pubblico denominato Lucid e presentare periodicamente una doppia dichiarazione telematica al proprio gestore convenzionato e all'organo di controllo centrale sui quantitativi di imballaggi movimentati. E per i trasgressori le sanzioni sono pesantissime e possono arrivare anche a 200.000 euro oltre al blocco della merce. Sono previste franchigie per piccole quantità o deroghe per operazioni occasionali? No, non ci sono eccezioni di sorta o minimi quantitativi. Tuttavia il produttore italiano ha la possibilità di trasferire la responsabilità e i costi della gestione degli imballaggi sull'importatore o sul distributore tedesco. Questa opzione però deve essere inequivocabilmente espressa nel contratto di fornitura, perché diversamente in caso di controllo le autorità tedesche si rivolgono sempre al produttore. Nel caso di vendite dirette da produttore italiano al consumatore finale tedesco, mancando un intermediario, il produttore non ha alternative a convenzionarsi con una delle 9 piattaforme riconosciute. Ma se questo sistema è in vigore dal 2009, perché ci preoccupiamo solo ora? Evidentemente la precedente modalità operativa non era efficiente e le sanzioni non sufficientemente dissuasive. Con le nuove disposizioni i controlli si fanno molto più serrati, tant'è vero che diversi nostri produttori che lavorano con importatori o con la grande distribuzione tedesca hanno già ricevuto richiesta di fornire i loro codici di iscrizione al Lucid. Purtroppo la procedura non è così semplice e a chi non parla tedesco o inglese e non ha familiarità con i sistemi informatici suggeriamo di farsi aiutare dallo staff tecnico della Camera di Commercio Italo-Germanica che ha sede a Milano. Nella 9ª puntata dedicata ai bovini avevamo terminato con Sandro Menegon preannunciando lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Oggi ci addentreremo sulle conseguenze che il conflitto determinò sull'allevamento bovino in particolare. Allo scoppio della guerra nel nord-est d'Italia confluirono numerosi contingenti dell'esercito, creando notevoli problemi di approvvigionamento alimentare. Con un decreto si impose il prelievo di un decimo dei bovini presenti nel regno, sulla base del censimento del 1908. Seguì l'incetta del 1916 e nel 1917 si effettuò il prelievo del terzo decimo. La prima incetta sottrasse più o meno il bestiame che, o per età o per improduttività, deve ogni anno essere limitato. Ma il secondo e il terzo decimo non toglie un superfluo alla stalla, ma liquida il capitale vero di produzione. Non è dunque una merce o un prodotto, ripetiamo, che si toglie, è un strumento in piena efficienza, un capitale in rigorosa fruttificazione. Ma il prelievo di questo bestiame non fu l'unico sacrificio richiesto alla nostra popolazione. L'obbligo di vari vitelli fino al peso di 200 kg per le razze di pianura e di 120 per le razze montane causò un ulteriore onere, soprattutto in quelle zone dove gli allevatori trovano il loro maggior tornaconto sbarazzarsi presto dei vitelli per tirare partito del latte in tutt'altro modo. La requisizione del fieno per i quadrupedi dell'esercito determinò una carenza di foraggio aggravata dal divieto di alpeggio in molte aree, in oltre 130 malghe, per un carico potenziale di circa 9.000 bovini, 4.000 caprini e 1.000 ovini. Inoltre è stata vietata la raccolta delle stramaglie nella zona paludosa della Bassa. E dopo Caporetto? Come l'esercito italiano oltrepassato lo Iudrio razziò il bestiame friuliano e austriaci, gli austro-ungarici razziarono il bestiame ai friulani italiani. Parte di esso cadde in mano dell'esercito nostro, altra parte fu portata oltre le linee austro-ungariche, ma gli animali dell'una e dell'altra parte furono tutti sacrificati per il mantenimento delle truppe austriache italiane. Il fascino dei giardini d'inverno, il parco di Villa Varda sulle rive del Livenza, e questo è il tema che ci sviluppa oggi Franca Merluzzi per la rubrica dei giardini. E i giardini in questa stagione hanno un loro fascino. Spogli della vegetazione rigogliosa si mostrano in tutta la loro essenzialità. Chi li frequenta è spesso attratto da un profumo dolce e soave, quello del calicanto, i cui fiori compaiono sui rami privi di foglie sfidando il gelo. E a chi apprezza atmosfere tra le brine e il tiepido sole di questi primi mesi dell'anno, ricordiamo alcuni parchi e giardini che sono sempre aperti al pubblico. Iniziamo con il parco di Villa Varda, in comune di Bruniera, 14 chilometri da Pordenone, di 18 ettari, in località San Cassiano. Molto frequentato nella bella stagione, anche d'inverno ha i suoi affezionati fruitori. Chi pratica jogging o ama passeggiare nel silenzio della pianura lo può fare lungo percorsi ben tracciati e viali di tigli. Indimenticabile, davvero indimenticabile, è lo scorcio sull'Livenza. Il fiume forma un'ansa con una piccola baia che un tempo consentiva anche l'approdo delle barche. Il patrimonio arboreo conta circa 3.200 piante, tra cui uno splendido esemplare di libocedro. Lo scorso anno è stato tagliato, per ragioni di sicurezza, il grande pioppo sul lato verso il fiume e ridipinto di bianco il ponticello di ispirazione orientale. Accanto al Canevon, una grande cantina, è stato ripristinato un giardino di rose. La serra è un book crossing con libri a disposizione di tutti. La villa e il parco furono acquistati intorno al 1870 dal barone Carlo Marco Morpurgo de Nilma, uomo di successo della comunità israelitica di Trieste, impegnato in attività commerciali e finanziarie in Europa e in Egitto. Qui a Varda veniva in villeggiatura, insieme alla consorte Emma Mondolfo, alternando soggiorni nella residenza estiva, ora casa museo, a periodi nella tenuta, circondato da familiari, amici e molti ospiti stranieri. Con lui Varda divenne una florida azienda con tanti annessi agricoli e filanda. Nei primi del Novecento vennero costruiti la serra, il mausoleo, la torre con ghiacciaia e serbatoio per l'acqua e restaurata l'antica cappella. Nel 1943 Mario Morpurgo, l'ultimo discendente, lasciò in eredità il complesso al seminario di Pordenone. Nel 1975 subentrò la regione, che poi cedette la proprietà al comune di Bruniera, che ora lo gestisce. Tra mille difficoltà e controlli della Guardia di Finanza, l'arte del distillare la grappa riuscì a sopravvivere in regione anche alla Seconda Guerra Mondiale e soprattutto grazie all'arte dell'arrangiarsi. Nella prima metà del secolo scorso operarono in provincia di Udine parecchie distillerie agricole, in grado di produrre grappa esclusivamente da vinacce e fondi di vino, nonché distillati di frutta, per lo più di prugne, impiegando dunque come materie prime solo quelle derivanti da fondi propri o acquistate da agricoltori circonvicini. Ma già nel 1943 la maggior parte di quelle distillerie più piccole, di quella particolare categoria, risultavano chiuse a causa delle difficoltà create dalla finanza, quantunque nella parte montana o boscosa della regione si producessero ancora distillati di contrabbando con alambicchi di fortuna, specialmente ad opera dei carbonai. Proprio nel 1943, malgrado le recrudescenze belliche, a Marsure di Povoletto il giovane Beppi Tosolini riuscì a avviare una propria distilleria, con alambicchi tradizionali, che poi rilancerà col nome Camel per la produzione di note grappe, come ad esempio Vite d'Oro, prima di lasciarla leader nel campo dei distillati per pasticceria e staccarsene con un nuovo marchio a suo nome, puntando sull'acquavite da mosto d'uva pur continuando a produrre grappe. Analogamente, tra i Monti della Carnia, dal 1944 in piena occupazione dei cosacchi, Riccardo Gortani, pronipote del già ricordato a suo tempo Giovanni, operò nella stessa direzione. Riattivando l'alambicco a Vito, allo scopo di riattivare l'attività distillatoria, sia in proprio che per conto terzi, diede origine alla nuova distilleria Periz, chiamata così dal soprannome del ramo della famiglia Gortani, trasferitosi 20 anni dopo a Mereto di Capitolo, ove produrrà grappa e altri distillati nell'ex villa Sasso Frangipane, ospitante tra l'altro il vecchio alambicco rimesso in regola alla fine della guerra e poi utilizzato per oltre un ventennio. Alla fine del secondo conflitto mondiale, tutto sommato, i danni patiti dall'intero apparato produttivo regionale e in particolare dalle sue industrie furono complessivamente limitati. Eppure, nell'immediato dopoguerra, la ripresa delle attività trovò un consistente ostacolo nella mancanza di materia prima e risorse energetiche. Sicché nel 1947 si era appena raggiunto un livello produttivo pari al 75% di quello prebellico. Sia pure piuttosto a rilento, l'economia comunque ripartì e con essa riprese quota anche il settore della distillazione, meno penalizzato di altri grazie alla minor difficoltà nell'approvvigionamento. Una sobria comunicazione, oggi in collezione privata, spedita il 29 ottobre del 1946 dalla direzione dello stabilimento di Cervignano della Società Distillerie Italiane, avente sede centrale a Milano, informava la ditta Angelo Tomadini di Pordenone che «Oggi abbiamo ripreso la nostra produzione e con sabato 2 novembre prossimo venturo saremo in grado di riprendere i rifornimenti». Ed ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento attivo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,90 e 17,10 euro il quintale IVA esclusa. Il frumento buono mercantile tra 20,90 e 21,20. L'orzo tra 20,80 e 21,30. La soia tra 33,20 e 33,70. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 40 centesimi, mentre la soia è diminuita di circa 3,30 euro al quintale. Nel comparto zootecnico si rilevano cenni di stabilità e i mercati dei bovini a macello quotano le vacche fine carriera di prima qualità a peso morto tra 2,20 e 2,70 euro al chilo, quelle di seconda tra 1,50 e 2,20. Quotazioni ferme anche nel settore dei vitelli da ristallo, dove i blubelga maschi vengono pagati tra 5,60 e 6,20 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,30 e 5 euro, i frisoni tra 1,50 e 1,80 e i bruni tra 1,40 e 1,70. Mentre continua la tendenza congiunturale invece nel settore suinicolo e da tonzoli franco partenza di 40 kg sono pagati a 1,87 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,09. Domanda sostenuta e aumenti nel comparto caseario con il valore del montaggio fresco compreso tra 5,20 e 5,90 euro al chilo, quello di 4-6 mesi tra 6,60 e 7,10, con marchio di qualità tra 7,40 e 8 euro, lo stagionato invece è di 12-15 mesi tra 7,70 e 8,10. Infine tendenze in calo nel comparto degli aviconicoli con i polli a terra pagati tra 0,92 e 0,94 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,35 e 1,37, le faraone tra 2,35 e 2,39, le anatre tra 2,40 e 2,44, i conigli oltre 2 kg e mezzo tra 2,45 e 2,50, le uova oltre 73 grammi a 14 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio diamo ora un'occhiata al meteo per la settimana entrante. Il 2019 è iniziato con una presenza quasi costante dell'anticiclone sull'Europa centro-occidentale, che sta facendo da scudo alle correnti umide atlantiche e sta favorendo la persistenza di correnti settentrionali, soprattutto alle quote più elevate, con l'atmosfera piuttosto secca invece nei bassi strati. Queste correnti settentrionali fanno affluire masse d'aria piuttosto fredda dalla Scandinavia e in quest'ultima settimana le temperature minime sono scese in pianura fino a meno 6 gradi e in montagna fino a meno 14 a Fusine, valori assolutamente normali per il periodo. Nella prossima notte in montagna, specie sui settori più settentrionali, potranno esserci delle nevicate, ma domani già in mattinata ci sarà un miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone. Soffierà vento forte da nord a nord-ovest sulla zona montana, con raffiche anche oltre 100 km orari, decisamente più moderato invece il vento su pianura e costa. Martedì tempo stabile, asciutto e temperature sempre in linea con la media del periodo, simili a quelle già registrate in questi giorni. Mercoledì la circolazione atmosferica inizierà a cambiare, con cielo poco nuvoloso al mattino, probabilmente più umido invece al pomeriggio, quando il cielo diverrà nuvoloso su pianura e costa, con possibili foschie alla sera. Giovedì l'avvicinamento di una moderata saccatura depressionaria dall'Atlantico provocherà probabilmente cielo da nuvoloso coperto su pianura e costa con deboli piogge e nevicate in montagna oltre 600 metri circa. L'evoluzione successiva è ancora incerta, ma si profila, col cambiamento di circolazione in vista e l'afflusso di correnti atlantiche più umide, maggiore possibilità che sulla zona montana arrivi neve. Ma come sempre, invitiamo a seguire gli aggiornamenti quotidiani delle previsioni. Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Di Zenar al va ben ogni rovedal, ovvero a gennaio fa comodo anche un rovedal, un cespuglio spinoso per bruciare e riscaldarsi. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Thank you. Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.